Ma padre, sempre alla portata di mano, il confessore non è possibile averlo. Perché il mio confessore ce l'ho, ma a volte è a scuola a fare scuola, a volte è all'ospedale a trovare gli ammalati, a volte è in giro a benedire le case, a volte arrivo in chiesa che è già pronto per dir messa. E allora, io devo stare così, giù di corda, giù di morale, giù di pressione, giù. Non c'è qualcosa Oh sì, ve l'ho detto ieri. Tira fuori di tasca il tuo crocifisso. Su, dove sei? Non c'è un angolino. Anche lì, seduto nella tua automobile, un attimo, quel crocifisso, dagli uno sguardo, bacialo, ribacialo se occorre. E sentirai che qualcosa è cambiato dentro di te nel profondo. Sei diventato subito ottimista. Sei su di giri, su di pressione, su di corda per quel piccolo gesto d'amore a Gesù Cristo, che ha detto: quando siete affaticati e oppressi, lunatici, venite da me. E da lui si va a confessarsi. Lui si incarna nel sacerdote che ti assolve, da lui si va anche onorando l'immagine di lui crocifisso, imprimendo un bacio su quel crocifisso. È come una confessione spirituale. Non è il sacramento della confessione, ma come c'è la comunione sacramentale e quella spirituale, qui c'è anche la confessione sacramentale e quella spirituale. Quell'atto di dolore lì, formulato con un bacio, è come una confessione spirituale, quella sacramentale la riceverai, la farai quando ti sarà possibile incontrarti con il confessore, quel bacio al crocifisso. Ma io ho imparato il Gesù d'amore acceso, sì, dillo, se non basta una volta, dillo due, ma io ho imparato l'atto di dolore, sì, è lunghetto. Io ne ho imparato uno più corto, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. È un atto di dolore questo. Quanti se ne possono dire di questi atti di dolore? In un minuto? Oh, in un minuto secondo? Il Signore non guarda mica le parole, sai, il cuore, e ti tira su. Non basta, qualcuno ha provato e non gli è bastato, e allora ve ne insegno un altro.